così vada, se pur mio Oh! io mi tutto giù per quella canarata e tu vai ad aprirmi, ma non tremare. Circolo! Con eccellenza! Vi chiamerò intra breve. Sua Eccellenza, una domanda sola. Eccellenza, il signore che della polizia l'assassino! Non cadde ancora in nostra mano, il conte non proferiva un nome, neppure il nome mio. Avea qualche nemico, lui giusto c'era, e chi? Vuoi interrogare i servi nell'altra stanza? No, restate qui. Scrivete. Slitta. Parla, parla, parla. Egli mi disse, andiamo al tiro. Andammo, attesi un quarto d'ora. Subitamente nel gran silenzio sono e spari. Ascolto. Nulla. Più nulla, tranne lunghi latrati. Oh mio stupore! Forse in nato spinto cancello, corre a sindacco, che la bizarra non seppi. E poi, quel buon correndo, avea lasciato sulla neve stille di sangue. Come per io prego mio dolce salvatore e la piegosa madre di Dio, ne prego in vano. Ecco una slitta, io chiamo, chiamo, era il Signore, dica il resto, io più non posso. Oh, padre! Così adunque, signore, era chiedermi qui da un padiglione solitario. Saliamo, lordo di sangue giace il conte. Aveva quest'arma in pugno. A terra stava.

guardi quell'ombra che si inseguono dall'una all'altra stanza. Lo cercano. Prendetelo. Le ombre si sono riunite. L'han preso. Signora. Oh, bisticcio. Principessa, ci fate uomini per la Russia. Partite. A mezzanotte. E domani. Poi vedremo allora. Entro bordo. Addio, addio. Rispondi, verrai. Sì, aurora.

io salgo, e io uscito, il servo mi lascia un istante, io porro al tiretto, e trovo... Che dice? Ti attendo stasera alle 9. Yeah. Lettere direttami a Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Lettere, non l'hanno detto, non l'indovino. Né al

Valeriano, mio fratello, lui o qua. lettera è scritta da una russa dimorante a Parigi, segnò col nome di battesimo, ma la scopriremo. Ti recherò la lettera, conoscerò la mia nemica al fin. Fioriskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata. Mia madre, mia madre, madre mia. Morti per me, morti innocenti, e quella donna, la maledetta spia che mi segue sempre ovunque, ma l'avrei matto lei per Dio, perché fedora da me ti scosti. Thank you.

这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科费比沃、高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora. come? Se tu mentissi! Dimmi dubiti ancora! Chi mi dà la certezza? Lui stesso! Vladimiro! Ecco la prova! Leggi! Anima mia! La sua scrittura! 我喜欢旅游，喜欢拿着单反